Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Secondo appuntamento per questa settimana insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Ritroviamo con noi Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco. Allora, cosa raccontiamo oggi ai nostri amici di Blu Radio Veneto? Parliamo di crisi, ahimè, quando mi si stringe il cuore, grazie, quando sento questa parola, ma insomma, qualcuno si è messo lì a fare un po' di conti. Sì, diciamo che in questo periodo, quindi dalla crisi che potremmo datare al 2008, un po' tutti sono messi a fare i conti. In questo caso noi abbiamo così selezionato una notizia che ci è parsa curiosa ed è deriva da un rapporto della COP, un rapporto del rapporto 2015 della COP, che è riportato anche dal Sole 24 Ore. E diciamo, la prima cosa che emerge appunto è che le famiglie italiane hanno perso dal 2008 122 miliardi di euro, che è chiaramente una cifra altissima. 75 miliardi si possono computare a minori consumi, quindi confermiamo che c'è un crollo dei consumi. È pur vero che però, come dice appunto il rapporto, c'è un crollo dei consumi da una parte, però c'è anche un cambiamento del consumo da parte degli italiani, cioè è cambiata proprio anche a livello di alimentazione, ma non solo. Diciamo sono cambiate le abitudini degli italiani. Eh sì, nel senso che quando uno deve fare un po' di conti inizia a tagliare dove può e quindi si va a tagliare nei vari settori, magari si risparmia togliendo, che ne so, il telefono fisso e andando avanti solo con i telefoni cellulari, si cambia il tipo di spesa, no? Si cambia il tipo di spesa, io la vedo, noi abbiamo potuto vederla soprattutto anche noi come associazione dal punto di vista sicuramente alimentare, per cui diciamo una delle caratteristiche di questi ultimi anni è sicuramente il minor consumo di carne e il minor consumo di altri, può essere anche del pesce, insomma delle cose un po' più costose, e questo è vero, questo è confermato, lo può confermare chiunque insomma si occupi di queste cose. E però diciamo che c'è anche una caratteristica, è sicuramente diminuito il consumo di certi tipi di prodotti, però è aumentato il consumo di altri prodotti che non sono propriamente meno cari, tipo i prodotti biologici, quindi secondo noi anzi c'è una rinnovata cultura salutista da parte degli italiani, e anche il minor consumo di carne è legato sicuramente a una campagna molto dura che è stata fatta negli ultimi anni appunto contro la carne, in particolare contro la carne rossa, alla quale anche si legano certe malattie particolarmente gravi, come anche certe forme di tumori. Quindi l'italiano è diventato più vegetariano, più vegano e preferisce il cibo bio. Questo non vuol dire risparmiare, perché il cibo bio mediamente può costare anche di più di un cibo normale. Senza il mediamente. Esatto. Quindi c'è sicuramente un'attenzione nella spesa, quindi anche a livello di quantità, eccetera, però c'è un miglioramento, diciamo, dal punto di vista della scelta per quanto riguarda la propria salute. Questo è fuori discussione, forse grazie anche un po' appunto anche una migliore campagna a livello televisivo che ha insegnato varie cose, insomma, da questo punto di vista. Beh, quindi questo è importante, cioè sta cambiando il paese, no? Se c'è un po' più di attenzione magari si mangia anche qualcosa in meno, e questo potrebbe giovare al nostro portafoglio, però si sceglie la qualità con i prodotti vegetariani, sperando che poi siano le certificazioni servano a qualcosa. Certo, comunque diciamo che il vegetariano tra l'altro registra un aumento di consumi del 10%, il bio del 20% e anche una piccola fetta di vegano che invece conosce sicuramente è una novità assoluta di questi ultimi anni, ed è in aumento del 2%, e quindi ecco, diciamo, dal punto di vista alimentare c'è sicuramente una conversione salutista da parte degli italiani. In più, sempre dal rapporto della COP vediamo che gli italiani, queste sono un po' di curiosità che però sono simpatiche, diciamo, siamo i più palestrati e i più connessi d'Europa e anche probabilmente, se non i propri più atei, ma i più laici e indifferenti, pur essendo effettivamente in un paese dove molti si professano comunque credenti, praticanti. come una cosa negativa siamo sicuramente tra i più evasori, però anche tra i più altruisti. Queste sono un po' le cose che sono venute fuori, le caratteristiche che sono venute fuori dall'indagine, dal rapporto della COP. Tra l'altro viene fuori appunto che per gli italiani la parola d'ordine, la nuova parola d'ordine, è wellness, cioè lo star bene, ma si lega un po' anche all'argomento di prima, quindi siamo i più magri d'Europa e anche tra i più longevi. E ci concediamo anche meno vizi di un tempo, quindi meno alcol e meno fumo, anche qua legato ai costi ma anche alla salute. Quindi insomma diciamo che ci sono delle indicazioni anche abbastanza positive da questo punto di vista. Sappiamo che poi se da una parte si fuma di meno e si beve di meno, anche se ahimè quella del bere è una questione particolare, forse va da regione a regione. In Veneto non mi sa che, non so se noi rispettiamo assolutamente un consumo superiore a quasi tutte le altre regioni italiane, forse col Friuli possiamo competere tra virgolette. E poi c'è la parte giovani che mi sa che invece manca ancora forse la coscienza, no? Nei giovani del volersi particolarmente bene, e sono un po' più diciamo così distratti, si beve anche troppo in certi momenti. Vabbè, insomma, speriamo che le cose cambino, perché poi questo giova anche alle spese della sanità italiana in qualche modo, e se ne ha un ritorno. E anche assolutamente. Vabbè, è una così una bella indagine che abbiamo così spolverato insieme all'Adico. Ringrazio per questo Gianluca Codognato, che non so se ritroveremo, ma se non ci sei tu Gianluca ci sarà il presidente Carlo Garofolini. Grazie all'Adico, alla settimana prossima. Grazie Francesco, grazie, buona giornata. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.